Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. Emiciclo di Strasburgo affollato questa mattina per la sessione plenaria dell'Europarlamento. Presenze da grandi occasioni per il consueto discorso sullo stato dell'Unione del Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, che ha tracciato il programma per i prossimi mesi. Programma di un'Europa che, non ha nascosto, è in crisi di identità. Come di consueto, Juncker ha usato tutte e tre le lingue dell'Unione Europea, ma è al tedesco che ha affidato uno dei temi più spinosi, quello economico. Il patto di stabilità, con i suoi parametri di bilancio da rispettare, non deve diventare un patto di flessibilità, ma deve essere applicato con flessibilità intelligente per non ostacolare la crescita dell'economia, così il presidente della Commissione europea Juncker nel suo discorso a Strasburgo. Il livello del deficit è sceso, ma i debiti continuano a essere elevati, aggiunge. Sulla Brexit, rispettiamo e ci rammarichiamo della decisione del Regno Unito, ma l'Unione in sé non è a rischio. Certo, è in atto una crisi esistenziale con la disoccupazione troppo alta. Serve un'Europa sociale, spiega Juncker, che rilancia sugli investimenti. Proponiamo di raddoppiare la durata e la capacità finanziaria del nuovo fondo europeo, nato nel 2015, affinché fornisca 500 miliardi di euro entro il 2020 e 630 al 2022. Per farlo, bisogna creare le condizioni necessarie, a partire dalle banche e dal mercato unico dei capitali. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dunque, basta austerity, ma con accortezza, in un'Europa che, annuncia ancora Juncker, deve puntare alla crescita, perché non accetterò che i millennials siano più poveri dei genitori. E la via, dice, anche tentare il blitz digitale con un 5G europeo che porterebbe milioni di posti di lavoro. Poi i migranti, con i fondi chiesti dall'Italia per una cooperazione esterna. Today we are launching an ambitious investment plan for Africa and the neighborhood, which has the potential to raise 44 billion in investments. It can go up to 88 billion if member states pitch in. 44 miliardi per il cosiddetto Migration Compact, destinati all'Africa e ai paesi dell'Est. Ma accanto alla solidarietà, la Commissione Juncker rilancia sulla sicurezza. Il terrorismo è una priorità, dice, non solo per la Francia. Tant'è che entro novembre la Commissione proporrà un sistema europeo di informazione sui viaggi. Ogni volta che uno entrerà in Europa sarà registrato, dice Juncker, luogo, data e motivo dello spostamento. Un'Europa matura, dice ancora il presidente della Commissione, anche per una difesa comune europea. Nous devons également nous orienter vers des ressources militaires communes qui dans certains cas relèveront de l'Union, en pleine complémentarité avec l'OTAN. Plus de défense européenne ne veut pas dire moins de défense et de solidarité transatlantique. Ed Europa che deve muoversi unita sulla Siria per giocare un ruolo comune al tavolo internazionale, perché, dice, la Siria ci riguarda direttamente, è vicina a noi. Un discorso di circa 40 minuti, insomma, per tracciare il nuovo programma, nel quale entrano molti dossier. Nuove norme sulle armi da fuoco, più attenzione per i minori non accompagnati che arrivano in Europa, le nuove norme per il roaming telefonico, il copyright, l'annunciata battaglia contro le multinazionali per le tasse nel vecchio continente. Tutti dossier sui quali, come sempre, torneremo nei nostri spazi europei. Per ora ci fermiamo qui, ancora un saluto da Anna Migliorati, appuntamento con l'Europa che torna però già questa sera in effetto notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.